Giovanni e Paolo non si ritengono eroi. Giovanni e Paolo stanno facendo il loro dovere per noi. Giovanni e Paolo hanno rinunciato alla loro libertà. Giovanni e Paolo oramai non si tirano indietro. Giovanni e Paolo concluderanno ciò che hanno iniziato. Ma Giovanni e Paolo stanno smuovendo troppo le acque. Giovanni e Paolo stanno creando un vero maremoto. Qualcuno nei palazzi si sta già lamentando di loro. Qualcuno nelle banche chiede che vengano messi a tacere. Qualcuno nei giornali conduce infamanti campagne contro di loro. Giovanni e Paolo hanno tutti contro, li stanno ostacolando e provano a infangarli, ma Giovanni e Paolo non stanno ad ascoltare. I corvi ed i politici, servi del mondo criminale. All'inizio posso dire ci fu una certa, cioè i coloro che si cominciano a interessare di questi problemi non è che raccontano grossa solidarietà all'interno del Palazzo di Giustizia, perché si riteneva che fossero un po' dei fanatici o delle persone che si volevano interessare di una cosa che tanto andrà sempre così e quello che ci mette davanti. Poi questa indifferenza in gran parte si parla di quella generale che avrebbe chiamato il giudice Chinnici, avrebbe detto guarda, riempi il collega Falcone di piccoli processi di rapina, così finisce di rompere le scatole e occuparsi di problemi.